Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Dovete sapere, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che il personaggio che sto per presentarvi, che sarà mio ospite qui a Storielle oggi, è talmente poliedrico, potremmo dire con certe assonanze che poi chiameremo poliedrico, che per cercare qui e lì tutte le cose che ha fatto, che va eccetera eccetera, ho dovuto prendere alla fine un ricostituente, mi è venuto il mal di testa non poco. Però intanto una sintesi gliela faccio fare a lui e poi dopo dipaniamo un po' tutta questa storia professionale, umana, molto articolata. Ma quali sono i tre aggettivi con cui sinteticamente l'ospite si potrebbe tracciare? Allora, timoroso, distaccato e doppio. Non ho mai sentito degli aggettivi così particolari, neanche tanto lusinghieri, tra timoroso. Ma guarda, a vederti, a viverti, insomma, a godersi lo spettacolo con te da quando hai cominciato, non mi sembra, però cercheremo di capire perché anche questo doppio, dobbiamo quindi rimanere un po' vigili e diffidenti nei tuoi confronti, o è una specie di... Sì, non dico mai quello che penso. Benissimo. Certo, mi adeguo, sono un camaleonte, uno zeli, mi adeguo alle idee degli altri per timore, per viltà, non ho nessuna voglia di cambiare l'idea alla gente, non mi vado a drizzare le gambe ai cani, perché stia una storia. Vabbè, si prende un po' in giro come al solito il nostro Bruno Gambarotta, non potrebbe fare diversamente un personaggio come lui. Bruno, è vero? Sì. Timoroso magari è un po' anche questo, un po' nel, diciamo, effettivamente nel personaggio che ti sei creato. No, ma sono veramente, nel senso che io ho paura di fare il passo più lungo della gamba, sono un gregario, non un leader, e voglio far bella figura. Voglio che gli altri non mi vivano come una minaccia, ma come una risorsa. Quindi rassicurante. A proposito di gregario, infatti tu sei esploso. Intanto sei stato per 30 anni in Rai, per oltre 30 anni in Rai, hai lavorato e sei stato programmista, delegato alla produzione di film e telefilm, e poi sei scoppiato alla veneranda età di 50 anni suonati, non perché in sé sia un'età veneranda, ma per iniziare una carriera, diciamo 50 anni, come spalla di Adriano Celentano. Sì. Ecco perché... Quest'indole quindi c'è, però ha permesso di tirare fuori un po' le tue doti di intrattenitore, no? Ma di spalla soprattutto. Di spalla. Di Celentano, diciamo, nel suo fantastico, il fantastico del 1987, sì, se non sbaglio. Sì. E di lì, insomma, sei venuto fuori, sei diventato famoso, perché prima lavoravi duramente, ma no, la fama... Di luce riflessa, la luce, il faro era Adriano, io ero soltanto una specie di luce riflessa, ma va bene, sì, mi ha cambiato la vita, io... Esattamente la data è il 10 ottobre dell'87, la seconda puntata di Fantastico, quando Adriano ha deciso che io dovevo spiegare il gioco del caffè perché a lui riusciva misterioso questo regolamento. Aveva tante altre cose da pensare, mi ha detto chi ti chiama in video e lo spieghi tu, poi però si divertiva a farmi sbagliare, allora è nata questa coppia, insomma. Senti, ma come ti ha pescato dietro le quinte? Vi conoscevate già? È successo che io ero già, dopo 12 anni romani, sono tornato a Torino per ragioni di famiglia a lavorare alla Rai di Torino. E quando hanno iniziato col fantastico di Celentano era difficile da contenere. Allora il direttore della Rai si è ricordato di me, mi ha richiamato a Roma con questa mansione di coordinatore degli autori. E soprattutto per fare da interfaccia con Adriano. Mi ricordo era la notte del 23 di giugno, non ricordo perché il 24 giugno a Torino è la festa di San Giovanni, mi telefonò in piena notte, mi disse vieni, abbiamo bisogno di te. E mi disse tu devi andare a Galbiate e diventare amico di Adriano. E poi pian piano fagli capire le nostre esigenze. Io sono diventato amico di Adriano veramente, c'è un'amicizia fortissima che dura tuttora. E poi piano piano, io ero un po' la voce della ragionevolezza, ero il funzionario torinese, square, no? Quadrato, posato, pieno di buon senso, che cercava di contenerlo, perché Adriano è veramente un vulcano in attività perenne. E ha mantenuto, no, questa verve, questa indole. Tra l'altro lui, quando ha visto che è nata questa coppia, lui ha detto, ma andiamo via tutti, la facciamo solo io e te, fantastico, dico, no, per l'amor del cielo no. Però lui era molto contento che la cosa funzionasse, infatti mi dicevo, i miei amici dicono che quando siamo insieme fai ridere più tu di me, e qualunque altro comico mi avrebbe cacciato via, no? Da Manfredi a Tognazzi a Sordi. Per gelosia, dici, per paura. Non toleravano una spalla che facesse... Che avesse il sopravvento. Sì, invece Adriano era felicissimo, cioè lui è talmente sicuro di sé. E questa cosa mi ha cambiato la vita. Io il giorno dopo a Roma vivevo in un residence, perché la famiglia ovviamente l'avevo lasciata a Torino. Sono sceso a prendere un caffè in un bar alla mattina e un signore mi ha chiesto l'autografo. Pensa un po', che effetto ti ha fatto? Ma me non sembrava, io mi sono girato indietro a vedere da chi lo volevo, invece ero io quello che dovevo fare l'autografo. Poi mi ricordo che Gigi Vesigna, allora direttore di TV Sorrisi e Canzoni, mi propose subito di fare un servizio fotografico sulla mia famiglia, che è un punto d'arrivo degli attori. Infatti Micheli, che lavorava con noi, assieme a Boldi e a Celentano, mi diceva: ma porca miseria, ma io non sono dopo 20 anni di carriera non sono ancora arrivato ad avere un servizio con la famiglia. Cioè, essendo stato sempre molto amico dei giornalisti, perché essendo produttore esecutivo di programmi, uno dei miei compiti era proprio di tenermi buona la stampa, perché per in qualche modo parlassero dei programmi che stavo facendo, quindi loro mi cercavano, gli raccontavo un po' di cose. Ero molto disponibile in questo, insomma. Pensa che io facevo la prova generale, il sabato pomeriggio c'era la generale, e la facevo io al posto di Adriano, perché lui era chiuso in albergo a scrivere il monologo. E quindi io, i giornalisti che poi scrivevano il pezzo, lo scrivevano dopo aver visto me, non aver visto Adriano. Io lo sapevo tutto a memoria, la trasmissione. E succedeva qui, Adriano disse: ma no, io non la faccio la generale. Ma i giornalisti come fanno a fare il pezzo? No, ma deve essere una sorpresa anche per loro. Però i giornali volevano il pezzo la domenica mattina, non il lunedì. E quindi i giornalisti, come sempre succede, no? Anche a teatro, il critico di solito vede la prova generale, in modo che poi fa il pezzo e poi casomai aggiunge qualche nota di colore di quello che avviene primavera, poi, col pubblico, per dire 20 minuti di applausi, fischi, dall'ottone. Poche cose, insomma, da aggiungere. E invece per me è stato così, ma è stato un periodo di grande felicità. Mi si sono aperte molte porte, in realtà è stata quella la mia fortuna. Perché poi hai continuato a fare la spalla anche a Svalutation, poi porca miseria, poi hai fatto conduttore televisivo, radiofonico, autore. Il conduttore comporta una, come dire, un temperamento da leader, da uno che io poi tutto sommato preferisco giocare di rimessa. Io trovo che sia molto meglio stare ai margini. Beh, nel tuo caso diciamo che è questo che ti ha dato successo, no? Dicevamo sicuramente le qualità e poi questo tuo atteggiamento, questa indole particolare. Io ho sempre in mente una frase che disse Pirandello commemorando Giovanni Verga, che quando morì nel 1920 lui fece il discorso commemorativo a Catania e disse, in realtà Pirandello lo disse in polemica con D'Annunzio, disse: perché la vita o la si scrive o la si vive. E tu? E io preferisco scriverla, tutto sommato. Stare affacciato alla finestra e guardare gli altri, quindi stare ai margini. Ecco, io sono proprio un sostenitore della marginalità. Sai che il tuo modo è un modo intelligente e anche un po' furbino in realtà di essere al centro della scena, come anche in questo momento che ti sento un po' come un torrente in piena, effettivamente, perché tu hai tanto da dire, da essere, per cui vivo ai margini, ma alla fine sei nel centro, perché dicevo che sei anche conduttore televisivo, radiofonico, hai lavorato anche con Luciana Littizzetto, autore e attore teatrale, poi attore di serie televisive, di cinema, proprio adesso poi, no, va in onda su Rai 1 il commissario Manara, tu sei il poliziotto Quattroni. Ma va bene così. A proposito di piemontese, quindi qui abbiamo fatto un salto un po' in avanti dai 50 anni in poi, sì. Anche poi. Però prima tu sei nato ad Asti nel 1937, quindi siamo sui 71 anni. 72, no? Quest'anno. 72 quest'anno. Ad Asti, quanto tempo ci sei stato? Che cosa ti senti? Dunque, io sono figlio di un tipografo e di una pettinatrice. Ad Asti ho fatto le elementari e le medie. Poi ho cominciato a fare il pendolare con Torino, perché ho studiato in un istituto tecnico, mi sono diplomato perito fotografo. Quindi dal 51 ho fatto su e giù. Poi a 18 anni mio padre ha trovato lavoro a Torino, e allora ci siamo trasferiti a Torino, quindi dal 55 sono stato sempre a Torino. Poi dal 65 al 77 sono stato trasferito a Roma dalla Rai. E poi dal 77 ho chiesto io di tornare a Torino. Torino mi sta benissimo, è proprio la città che indosso come un vestito, insomma, è la mia città. Come diceva all'inizio di Manhattan, Woody Allen, dice New York era la sua città e lo sarebbe stata per sempre. E così Torino per Torino te. Torino per me. Storielle. Storiacce. Sempre Roberta Giordano con voi e a farci compagnia, ascoltatrici e ascoltatori, c'è Bruno Gambarotta, veramente un genio poliedrico, ce ne ha raccontate un po' e ci ha raccontato soprattutto come è iniziata la sua seconda parte di vita, la sua carriera, la parte più esplosiva, dai suoi 50 anni in poi, quando nel 1987 ha fatto quasi casualmente la spalla di Adriano Celentano. Ci dicevi appunto, Bruno, quindi, che Torino è la tua città e lo sarà per sempre, come diceva Woody Allen nel suo film a proposito di New York, perché ti sta addosso come un vestito. Sei un piemontese proprio, doc, tanto che anche come autore di teatro, se non sbaglio, l'hai fatto anche delle pièce in lingua piemontese. Sì, per 3 anni sono stato insieme ad attori eccellenti, abbiamo fondato una compagnia di teatro piemontese. Sì, è la mia lingua il piemontese, l'italiano l'ho imparato a scuola, a casa mia si parlava piemontese e quindi è la lingua materna, la lingua del latte materno. Senti, dimmi qualcosa proprio in piemontese che c'è bisogno di traduzione. In astigiano, per esempio, c'è una frase che sembra cinese: cosa feti, niti, steti, ondeti? Cosa fai? Stai o te ne vai? Un po' si può intendere questa, era abbastanza facile. Quindi tu l'hai imparato poi a scuola. Sì, è il destino degli scrittori piemontesi, che si tengono sempre sul tavolino da notte il dizionario, sono tormentati dai dubbi e quindi alla fine siamo più corretti degli altri perché non lasciamo passare niente. Per me l'italiano è una lingua straniera e quindi in questo modo la tratto con i guanti. Ma dimmi una cosa, è sempre vera questa cosa del torinese o del piemontese falso e cortese oppure no? Ma io lo sono falso e cortese, non so se lo siano tutti. Io lo sono perché, come dire, ho questa superficie, questa vernice di cortesia che può anche nascondere pensieri diversi. È proprio uno stile di vita, non so se sia tanto brutto essere così. Meglio essere falso e cortese che maleducati, bruschi, offensivi. Che maleducato, insomma. Questo sì. Così c'è questa vernice di riservatezza, di paura di dare fastidio. Sai, Torino, ritorniamo quindi su Torino, visto che tu l'ami così tanto e ci vivi e sicuramente il tuo DNA dipende anche da questa città, anche se abbiamo detto sei nato ad Asti. È molto migliorata negli ultimi anni Torino, ma c'è sempre un po' questo complesso di città che rimane sempre un po' in secondo ordine rispetto a Milano, per esempio, no? Questa ricerca di splendore che però non arriva mai completamente, o no? Certamente la rivalità con Milano è fortissima, si è un po' attenuata ultimamente con le Olimpiadi del 2006. Olimpiadi invernali. Si è attenuata, però rimane, è stata una capitale spodestata, insomma, Torino. Sì, forse è rimasto un po' questo complesso dell'essere stata spodestata, forse. Sì, in effetti rimane così, perché spodestata. Nel 1861 l'Unità d'Italia, fatta partendo da Torino e dal Regno di Sardegna, in realtà Torino è stata capitale solo per 3 anni. 1864 la capitale è trasferita a Firenze e poi da Firenze a Roma nel 1870 e quindi è una capitale mancata in qualche modo. Sì, comunque l'amiamo siamo isolati ancora adesso, alcune cose sono anche vere. Io vado spesso a Roma e l'ultimo orario ferroviario ha soppresso i supertreni per Roma, bisogna passare da Milano. Certo, la dice un po' lunga. Tu, allora abbiamo detto che fra le tante cose, attore di teatro, attore di cinema, di cabaret, hai scritto diversi libri, tra l'altro ne dovrebbe uscire uno nei prossimi mesi e ne parliamo dopo, conduttore televisivo radiofonico, se dovessi dare inevitabilmente, poi tu collabori anche con la stampa, hai queste due rubriche settimanali, Storie di città e Radio in Radio, in cui fai anche il critico radiofonico, se dovessi giudicare un po' la TV e la radio di questi ultimi tempi. Dunque, non voglio fare la figura di quello che vanta cose che non... Però io ti dico, mi devi credere, io ho avuto più volte nella vita offerte di scrivere di televisione e ho sempre declinato, perché non ho voglia, per scrivere di televisione bisogna guardarla. Io non riesco a vederla, dopo un po' mi stufo, la radio non smetterei mai di ascoltarla. Sono molto contento che la stampa mi lasci scrivere di radio una volta alla settimana e per scrivere di un programma lo ascolto per tutta la settimana, ascolto ore e ore, non mi stancherei mai di ascoltarla. Invece la TV mi dice poco o niente, sono molto contento quando vedo una rivista con queste facce di persone notissime, io non so chi sono, e quando sento dire tronista non so neanche cosa voglia dire. Forse è meglio non saperlo. Lo so, però sono molto contento di aver tagliato fuori questo. Però hanno successo, perché? Perché siamo peggiorati noi, perché in fondo comunque è una forma di televisione che ha una sua dignità se ha successo, qual è la spiegazione? Ma il meccanismo è molto complicato, secondo me è dovuto al fatto che per esempio è governata troppo dalla pubblicità, dai uomini del marketing, cioè quello strumento che è l'auditor, che rileva l'ascolto, lo rileva di minuto in minuto il giorno dopo. Allora tu fai un programma, vai in onda questa sera, domani mattina alle 10 dalla stampante esce l'andamento degli ascolti della tua trasmissione. Una vera ossessione, in minuto. È come se il direttore di un quotidiano, mettiamo il Corriere della Sera, il direttore Corriere della Sera il giorno dopo avesse l'elenco dettagliatissimo di quante persone hanno letto il suo giornale, ma di quali articoli sono stati letti di più e quali di meno. Un'angoscia. A questo punto potrebbe chiamare il suo editorialista, che strapaga tantissimo, e dire: guarda che ti leggono in 25 lettori, allora non mi servi più. Sì. Questo è lo strumento, capito? Sì, uno strumento pernicioso, un circolo vizioso. Sì, si morde la coda, perché io mi ricordo quando lavoravo ai programmi TV a Roma con Angelo Romano, per esempio, lui volle che noi aprissimo il varietà ai comici milanesi, erano i famosi Cocchi e Renato, c'erano Iannacci, c'era Villaggio, c'era Boldi, erano appunto, era il derby sostanzialmente, perché allora la TV trasmetteva solo comicità romana o napoletana. E noi abbiamo avuto telefonate furibonde ai centralini della RAI, ma siccome i dati d'ascolto arrivavano col servizio opinioni soltanto 3 settimane dopo, abbiamo tenuto siete andati avanti, quindi. E dopo un po' di settimane la gente si è abituata, ha cominciato ad apprezzarli. Cioè non puoi cancellare un programma dopo che è andato in onda la prima puntata solo perché non ha avuto gli ascolti. No, lo trovo assurdo anch'io, a volte appunto finché è la quinta puntata, quarta puntata, ma la prima, tante cose no, sono state subito buttate un po' via proprio perché solo dopo una prima puntata non aveva avuto un picco di ascolti. Ma dimmi una cosa, Bruno Gambarotta, adesso ritornando un po' al di là di questa tua ovviamente vocazione e professione di critico televisivo radiofonico, quando portavi i pantaloni alla Zuava, com'eri? Com'era Bruno Gambarotta allora? Non so, ero goffo, ero timido, introverso, sgraziato. E questa vena ironica umoristica a chi la devi? Alla mamma, al papà, a qualche incontro? A tua madre? Mia madre aveva un gusto straordinario dell'umorismo, dello scherzo. E poi è una difesa, perché se io facevo ridere in qualche modo i miei compagni mi accettavano, mi invitavano alle feste. Poi cuccavano gli altri, però in qualche modo era un modo per farsi accettare. La battuta, la frase "internet è una pippa planetaria, un collettore delle frustrazioni di milioni di persone" è tua la paternità. Per me io questa idea di internet è una specie di fogna, c'è di tutto. Certo, cioè, sono anche cose utili, per l'amor del cielo, ma non c'è controllo, non c'è filtro, c'è... Lo usi perché è utile, ne faresti volentieri a meno, insomma, se fosse possibile. Lo usi ma non lo ami, ecco, proprio perché... Ma no, perché non c'è gerarchia, non c'è un ordine di cose più importanti o meno. Chiunque può buttarci dentro quello che vuole. Io ti faccio un esempio, al Festival di Mantova, dove vado tutti gli anni, c'è un sito dedicato agli autori che partecipano al festival, nel mio sito c'è un libro in più. Nell'elenco dei libri che ho pubblicato ce n'è uno che non ho mai scritto. Bruno Gambarotta, Domenica è sempre Domenica, e Federico Monte Editore. L'importante è che... ragazzi che l'hanno messo, guardate che questo libro non l'ho mai scritto. E loro mi hanno detto, ma sei sicuro, è su internet. Senti, invece il codice Gianduiotto è tuo. Sì, certo. Tra i tanti libri che hai scritto. Sì, è una parodia del codice da Vinci. Naturalmente. E uno invece che dovrebbe uscire a mesi, questo mi piace molto il titolo, Polli per sempre. Polli per sempre, è un libro a cui ho accudito per anni, finalmente esce, ed è una storia di animali. Il dato di partenza è molto semplice, è un camion che trasporta polli d'allevamento, dall'allevamento a un mercato, si rovescia in un prato e i polli che restano vivi si trovano liberi e non sanno cos'è la libertà, perché sono nati e vissuti, certo, in cattività, quindi devono darsi devono organizzarsi. Alcuni vogliono tornare all'allevamento perché lì almeno si mangia, non sanno cosa fare, delle certezze. Altri danno vita a delle formazioni diverse, c'è il gruppo che vuole preservare la purezza dei polli, vuole salvaguardare la loro dignità, vuole fare il federalismo. Allora questi si chiamano i polli, fondano Pollagna Libera. Poi ci sono quelli rivoluzionari che vanno in montagna, che vogliono fare la guerriglia, sono quelli poi per servire il pollo. Poi ci sono tante mansioni, poi naturalmente c'è... Ma è un po' un romanzo satirico sull'Italia di oggi. Però è leggibile anche... Sì, in effetti è così. Il mio modello è Voltaire, insomma, io miro in alto, naturalmente. Ma com'è l'Italia di oggi, Bruno Gambarotta? È un bel teatro, per uno come me che la guarda affacciandosi alla finestra e non si lascia... fuori, perché io ho la pensione, non ho grande, è un bel teatrino, divertente. Ma è stato tuo compagno di scuola Paolo Conte? Sì, non è stato mio compagno di scuola, dunque io siamo cresciuti insieme. Paolo è nato il 6 gennaio del 37, è andato a scuola un anno prima. Lui dice addirittura che siamo stati compagni di banco. Però non ci è tiene vero, allora, quindi. Ma lui è così, poi lui o è vecchio. Si ricorda male, la memoria dici. La memoria è difficile. No, io e Paolo siamo cresciuti insieme. Lui era un grande leader naturale. Io ho fatto follie per essere accettato nel suo gruppo. Però sei un ottimo cuoco, è vero che sei un ottimo cuoco? Sono un ottimo cuoco, sì, perché mi piace molto far da mangiare, però anche lì sono amico di grandi cuochi che mi accettano volentieri in cucina, perché non mi vivono come una minaccia o come un possibile concorrente, perché io non aprirò mai un ristorante. mi piacciono molto i lavori di casa, perché le idee mi vengono di... No, un uomo, un marito ideale, quindi un compagno sì. ideale. Allora, io ho una teoria, sì. Gli autori del Novecento sono più brave le donne che gli uomini, perché le donne fanno i lavori di casa, allora le idee migliori ti vengono facendo i mestieri. Sì. Io non sto seduto davanti al foglio bianco, io se ho un'idea, se sto elaborando delle trame, delle storie... Mentre fai qualcos'altro. Stiro benissimo, tra l'altro. Stiri benissimo, saresti la mia salvezza, un pacco di camici alla settimana mi faresti felice. Ma se tu dovessi, per un qualsiasi imprescrutabile motivo, no, rinunciare da domani o al bollito o alla bagna cauda, che cosa butti giù dalla torre? Ah, è dura, perché il bollito, vabbè, non rinuncerei alla bagna cauda. Perché il bollito è il bollito, non si può, è vero. In chiusura, Bruno Gambarotta, questa che senti è la lampada di Aladino. Se sì. tu la volessi strofinare per esprimere un desiderio per sì. la tua vita, che cosa chiederesti? È tutta la vita che cerco la tarassia, cerco di non avere desideri per non soffrire. Come si fa? Io cerco di non desiderare niente, però... Che tipo? Un desiderio sicuramente ce l'hai, ce l'hai. Mi piacerebbe, sì, è un paese che amo molto, dove non sono praticamente, sono stato qualche giorno soltanto, sono gli Stati Uniti. E un desiderio sarebbe avere una casa in America e starci un po' di anni, oppure un desiderio è sapere bene l'inglese, che non mai sono mai riuscito a impararlo. Non è mai troppo tardi, come diceva qualcuno, forse il maestro Manzi, mi dice mia mamma, ogni tanto negli anni 60, 70, se sì. non sbaglio. Chissà, lì allora faremo qualche potresti fare il corrispondente poi lì dagli Stati Uniti, ci collegheremo direttamente io sì. e te da qui. Va bene, intanto che impari l'inglese. Grazie mille Bruno Grazie Gambarotta. A voi. Grazie, un abbraccio. Ciao Bruno, ciao a te. Arrivederci.